ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Domenica 9 marzo. Avanti allora. È un momento penoso, quasi insormontabile. Devo affidare il mio animo represso a uno stupido foglio di carta righe. I pensieri sono spesso così chiari e limpidi nella mia testa, i sentimenti così profondi, ma non riesco ancora a metterli per iscritto. Deve essere più che altro la vergogna. Mi sento molto impacciata, ma non ho il coraggio di lasciarmi andare. Ma sarà pur necessario se voglio indirizzare la mia vita verso un fine ragionevole e soddisfacente. È come nel rapporto sessuale. Alla fine, il grido liberatore rimane sempre chiuso in petto, per timidezza. Da un punto di vista erotico sono piuttosto raffinata. Direi quasi abbastanza esperta perché mi si consideri una buona amante. L'amore sembra perfetto allora. E invece rimane una Spielerei, passatempo, che gira intorno alle cose essenziali mentre qualcosa resta bloccato nel profondo di me stessa. E così è in generale. Da un punto di vista intellettuale sono tanto fortunata da essere in grado di esprimere ogni cosa con formule chiare. Quando si tratta di problemi della vita, posso spesso apparire come una persona superiore. Eppure, nel profondo di me stessa, io sono come prigioniera di un gomitolo aggrovigliato e con tutta la mia chiarezza di pensiero, a volte non sono altro che un povero diavolo impaurito. Vorrei fissare quel momento di stamattina, per quanto mi sia già quasi sfuggito. Per un istante, a forza di pensare, ero riuscita a impadronirmi di esse. Esse è lo psicochirologo tedesco Julius Speer. I suoi occhi limpidi e puri, la sua grossa bocca sensuale, la statura massiccia, quasi taurina, i movimenti liberi e leggeri come una piuma. Il conflitto tra corpo e anima che in quest'uomo di 54 anni è ancora vivissimo. Sembra quasi che io stessa sia schiacciata sotto il peso di quel conflitto. Sono come seppellita sotto quella grossa personalità e non riesco a liberarmene. E intanto i miei problemi, che mi sembrano abbastanza simili, si agitano e si dibattono. Si intende che è tutto molto diverso e difficile da esprimere. Forse non sono ancora abbastanza spietata con me stessa. E d'altra parte non è facile penetrare con le parole fino nel fondo delle cose. Prima impressione, dopo pochi minuti. Una faccia non sensuale, non olandese, un tipo in qualche modo familiare, mi faceva pensare ad Abrash, non del tutto simpatico. Seconda impressione. Occhi grigi, intelligenti, incredibilmente intelligenti, vecchissimi, che riuscivano per un po', ma non a lungo, a distogliere l'attenzione dalla grossa bocca. Molto impressionata dal suo lavoro, l'analisi dei miei conflitti profondi attraverso la lettura del mio secondo volto, le mani. A un certo punto colpita in modo molto spiacevole. Non avevo fatto attenzione, pensavo stesse parlando dei miei genitori. No, si tratta di lei, dotata filosoficamente e intuitivamente. Poi seguivano altre delizie simili. Tutto questo è lei. E lo diceva col tono di chi mette un biscottino in mano a un bimbetto. Non sei contento adesso? Bene, lei possiede tutte queste belle qualità, non è contenta adesso? Allora un breve istante di repulsione, in qualche modo umiliata, forse anche semplicemente punta sul vivo nel mio senso estetico. In ogni caso lo trovavo piuttosto indisponente. Ma più tardi c'erano di nuovo quei meravigliosi occhi così umani che venendo da grigie profondità erano posati su di me, indagatori. Li avrei baciati volentieri. E già che ci sono, ricordo ancora un altro momento in cui, quello stesso lunedì mattina, e sono passate ormai settimane, mi ero seccata. era la sua allieva, la signorina Holm. Un anno fa, coperta di eczema dalla testa ai piedi, era venuta da lui. Poi era diventata sua paziente. Ora è guarita. In un modo o nell'altro lo adora, anche se non so ancora bene come. A un certo punto la mia ambizione si era fatta sentire, nel senso che io insistevo nel voler risolvere i problemi miei. E la signorina Holm aveva risposto significativamente: «Non si è soli al mondo». E questo mi pareva gentile e convincente. Dopodiché aveva raccontato di quell'eczema che l'aveva ricoperta tutta, anche in faccia. E esse si era girato verso di lei, con un gesto che non riesco più a ricordare con precisione, ma che mi era parso molto antipatico. «E che carnagione ha adesso?» Sembrava che stesse parlando di una mucca alla fiera. Non so, l'avevo trovato disgustoso, sensuale, un po' cinico, ma allo stesso tempo era anche diverso. E alla fine della nostra seduta. Ora domandiamoci, come possiamo aiutare questa persona? Ma può anche essere che dicesse, questa persona va aiutata. A quel punto io ero già stata conquistata dalle capacità che aveva dimostrato nei miei confronti e mi sentivo bisognosa d'aiuto. Poi c'era stata la sua conferenza. C'ero andata unicamente per poterlo osservare da una certa distanza, prima di affidarmi a lui con l'anima e tutto quanto. Buona impressione. Conferenza di prim'ordine. Un uomo incantevole e un sorriso incantevole, malgrado tutti quei denti finti. Colpita da una sorta di libertà interiore che emanava da lui, dalla sua scioltezza e facilità, dalla grazia del tutto speciale di quel corpo pesante. Il suo viso era ancora diverso. Del resto, cambia sempre. Una volta tornata a casa, non riesco a ricordarmelo. Faccio combaciare gli aspetti che conosco come se fossero i frammenti di un puzzle, ma non ottengo un insieme compiuto. Rimane vago per tutte quelle contraddizioni. In rari istanti rivedo nitidamente quel viso e poi torna a scomporsi in tanti pezzetti contraddittori. È un vero tormento. A quella conferenza c'erano molte donne e ragazzine graziose. Era commovente l'affetto, quasi tangibile, che alcune ragazze ariane dimostravano per lui, per quest'ebreo emigrato da Berlino che era venuto da lontano per mettere ordine nel loro animo confuso. Nel corridoio c'era una ragazza magrolina, dall'aria fragile e dal faccino non proprio florido. Esse aveva scambiato qualche parola con lei nell'intervallo e quella ragazza gli aveva sorriso con una tale dedizione e intensità e così dal profondo della sua anima che mi aveva fatto quasi male. E mi aveva preso come una vaga scontentezza il dubbio che una cosa del genere non fosse del tutto lecita, il pensiero che quell'uomo rubasse il sorriso di quella ragazza, che tutti i sentimenti che lei gli rivolgeva fossero sottratti a un altro, a un uomo che lei avrebbe avuto più tardi. In fondo era una cosa bassa e disonesta, e lui è un uomo pericoloso. Visita seguente. Posso spendere 20 fiorini. Bene, lei può venire per 2 mesi e anche dopo non la pianterò in asso. Ed eccomi là, con la mia costipazione spirituale. E lui doveva mettere ordine nel mio caos interiore, venire a capo delle forze contraddittorie che operano in me. Mi ha presa come per mano e mi ha detto: «Ecco, devi vivere così». Per tutta la mia vita ho desiderato che qualcuno mi prendesse per mano e si occupasse di me. Magari sembro una persona coraggiosa, che fa tutto da sé, e invece mi abbandonerei così volentieri alle cure di un altro. E ora questo sconosciuto, questo signoresse dal viso complicato, ha compiuto miracoli in una settimana. Ginnastica, esercizi di respirazione, parole illuminanti e liberatrici sulle mie depressioni, sui miei rapporti con gli altri, eccetera, eccetera. All'improvviso ho cominciato a vivere in modo più libero e scorrevole. Quel senso di costipazione è sparito. Nella mia anima c'è un po' più d'ordine e un po' più di pace. Adesso è ancora l'influenza della sua personalità magica a produrre questo effetto, ma in futuro si formerà una base nella mia psiche. Sarà un processo cosciente. Ma ora, attenzione, corpo e anima sono una cosa sola. Deve essere stata questa la ragione per cui esse aveva voluto valutare le mie forze fisiche facendo la lotta con me. Evidentemente avevo ancora molte energie. È successo un fatto strano. Ho buttato a terra quest'uomo grande e grosso. Tutta la tensione e la forza che avevo accumulato si sono scatenate ed eccolo a terra, fisicamente e anche psichicamente, come mi ha raccontato più tardi. Nessuno c'era mai riuscito. Non capiva come avessi fatto. Sanguinava dal labbro e ho avuto il permesso di lavarglielo con acqua di colonia. Era un'operazione stranamente confidenziale. Ma lui era così libero, innocente, aperto, naturale nei suoi movimenti, anche quando eravamo rotolati insieme per terra, anche quando, vinta alla fine, mi ero trovata sotto di lui, tutta rigida fra le sue braccia. Anche allora esse era rimasto oggettivo e puro, sebbene io avessi ceduto per un momento alla seduzione fisica che emanava da lui. Però quella lotta andava ancora bene. Era soprattutto una novità e insieme una liberazione. Dopo, invece, aveva eccitato troppo la mia fantasia. Il mondo rotola melodiosamente dalla mano di Dio. Ho avuto in mente queste parole di Fairway per tutto il giorno. Anch'io vorrei rotolare melodiosamente dalla mano di Dio. E ora, buonanotte. Lunedì mattina, le 9. Cara mia, o tu ti metti a lavorare oppure la vedrai. E non tirarmi fuori che qui hai un po' di mal di testa, lì un po' di nausea, che adesso non stai bene. Sarebbe del tutto fuori luogo. Devi lavorare e basta. E niente fantasie e altissimi pensieri e profonde intuizioni. Svolgere un tema di traduzione e trovare le semplici parole giuste è molto più importante. Mi batterò fino in fondo. Voglio levarmi quei sogni e quelle fantasticherie. Voglio spazzare bene il mio animo per far posto ai miei studi, piccoli e grandi. In fondo io non ho mai lavorato bene. È come col sesso. Se un uomo mi fa una certa impressione, sono capace di abbandonarmi per giorni e notti alle mie fantasie erotiche. Non mi sono mai resa conto di quante energie io abbia consumato per questo. Ma se poi si arriva a un contatto reale, è una grande illusione. La realtà non può coincidere con la mia fantasia sfrenata. Così era stato con esse, quella volta. Avevo già le mie idee di come sarebbe stato il nostro incontro e mi ero recata da lui in uno stato d'ebbrezza, una tuta da ginnastica sotto il mio vestito di lana. Invece esse era stato molto oggettivo e distante. Io mi ero subito irrigidita a mia volta e anche la ginnastica non aveva funzionato per niente. Ero lì, nella mia tuta, tutte e due ci sentivamo imbarazzati come Adamo ed Eva dopo aver mangiato la mela. Esse aveva tirato le tende e chiuso a chiave la porta. La sua scioltezza era sparita e per parte mia avrei voluto scappar via e mettermi a piangere, tant'era odiosa quella situazione. Era disgustoso quando ci siamo rotolati a terra. Io che mi stringevo a lui con sensualità e insieme con repulsione per tutto quanto, e a un certo punto neanche i suoi movimenti erano più del tutto innocenti. Certo che sarebbe stato diverso se io non avessi avuto quelle fantasie. È stata una collisione improvvisa e fortissima tra il mio sfrenato fantasticare e la realtà deludente, ridotta a un uomo timido e sudato che alla fine si cacciava la camicia stropicciata nei calzoni. 15 marzo, le 9:30 di mattina. Ieri pomeriggio abbiamo scorso insieme le note che mi aveva dato. Quando siamo arrivati alla frase «Basta che esista una sola persona degna di essere chiamata tale per poter credere negli uomini, nell'umanità», mi è venuto spontaneo di buttargli le braccia al collo. È un problema attuale, il grande odio per i tedeschi che ci avvelena l'animo. Espressioni come che anneghino tutti, canaglie, che muoiano col gas, fanno ormai parte della nostra conversazione quotidiana. A volte fanno sì che uno non se la senta più di vivere di questi tempi. Ed ecco che improvvisamente, qualche settimana fa, è spuntato il pensiero liberatore, simile a un esitante giovanissimo stelo in un deserto d'erbacce. Se anche non rimanesse che un solo tedesco decente, quest'unico tedesco meriterebbe di essere difeso contro quella banda di barbari, e grazie a lui non si avrebbe il diritto di riversare il proprio odio su un popolo intero. Questo non significa che uno sia indulgente nei confronti di determinate tendenze. Si deve ben prendere posizione, sdegnarsi per certe cose in certi momenti, provare a capire. Ma quell'odio indifferenziato è la cosa peggiore che ci sia. È una malattia dell'anima. Odiare non è nel mio carattere. Se in questo periodo io arrivassi veramente a odiare, sarei ferita nella mia anima e dovrei cercare di guarire il più presto possibile. Una volta me lo spiegavo in modo un po' superficiale. Quando mi sentivo lacerata tra odio e altri sentimenti, credevo che fossero i miei istinti primitivi di ebrea minacciata dalla distruzione a essere in conflitto con le concezioni razionali socialiste che avevo acquisito e che mi avevano insegnato a guardare a un popolo non come a un insieme, ma come a una maggioranza buona ingannata da una minoranza cattiva. Dunque, un istinto primitivo contrapposto a un'abitudine razionale. Ma si tratta di un problema più profondo. Il socialismo permette all'odio per tutto ciò che non è socialista di entrare dalla porta di dietro. L'ho detto male, ma so cosa voglio dire. Ultimamente ho sentito che era mio compito mantenere l'armonia in questa famiglia contraddittoria. Abito nella casa di Han Wegerif, insieme con Käthe, una donna tedesca, cristiana, di origini contadine, che è per me come una buona seconda madre, con Maria, una studentessa ebrea di Amsterdam, poi Bernard, un vecchio socialdemocratico, equilibrato e piccolo borghese, una persona pulita e abbastanza intelligente, ma limitata appunto dalle sue origini piccolo borghesi. E poi il giovane Hans, che è il figlio di Han Wegerif, studente di economia, leale, buon cristiano, che ha la gentilezza e la comprensione, ma anche la combattività e le maniere tipiche dei cristiani come li veniamo a conoscere in questo periodo. Era, ed è, un piccolo mondo affaccendato che rischiava di essere distrutto dall'esterno, dalla politica. Ma mi sembra che valga la pena di tenere in piedi questa piccola comunità per testimoniare che la vita non può essere rinchiusa in uno schema predeterminato. Però tutto questo costa un prezzo di dolore, di forti conflitti interiori, di reciproche offese di tanto in tanto, di nervosismo, di rimorso, eccetera, eccetera. A volte, se sono improvvisamente presa dall'odio dopo aver letto il giornale o dopo aver avuto notizie di fatti che capitano, mi metto a inveire contro i tedeschi fuori di me. So che lo faccio apposta per ferire Käthe, per sfogare in qualche modo il mio odio, anche se poi lo scarico su una persona sola. Una persona di cui so che ama la sua patria d'origine, cosa più che naturale e comprensibile del resto. Ma in quel momento io non riesco ad accettare il fatto che lei non provi altrettanto odio. Voglio che tutto il mio prossimo sia in sintonia con me. Eppure so che lei trova la nuova mentalità altrettanto pericolosa, che si sente altrettanto oppressa per gli eccessi compiuti dal suo popolo. È naturale che Käthe si senta legata a quel popolo nel profondo dell'anima. Capisco bene che sia così, ma in quel momento non lo sopporto. Per me tutti quanti i tedeschi dovrebbero essere e saranno sterminati. E allora sono capace di dire con tanta cattiveria: è un popolo di canaglie. Allo stesso tempo mi vergogno a morte. E poi mi sento profondamente infelice e non riesco a trovare pace. E ho la sensazione che sia tutto sbagliato. E allora è proprio commovente, come diciamo ogni tanto a Käthe, in modo così gentile e incoraggiante: ma sì, certo che ci sono ancora dei bravi tedeschi, In fondo anche quei soldati non possono farci niente, anche fra loro ci sono dei tipi decenti. Ma è solo teoria, che se non altro serve a mascherare ancora un po' di disgusto con qualche parola gentile. Se sentissimo davvero così, non avremo neppure bisogno di dirlo espressamente. Ci sentiremo animati da un medesimo sentimento, la contadina tedesca come gli studenti ebrei. E allora potremo parlare del bel tempo come della minestra di verdura, invece di tormentarci con discorsi politici che servono solo a sfogare il nostro odio. In quei discorsi, infatti, non si riflette quasi più sulle questioni politiche, non si tenta quasi più di individuare le grandi linee e di capire cosa c'è dietro, si rimane a un livello molto basso. Ne fa gran piacere conversare col prossimo di questi tempi. Perciò esse è come un'oasi in un deserto. E ieri, così, all'improvviso, ho dovuto buttargli le braccia al collo. Ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma adesso devo pensare al mio lavoro. Prima però esco a prendere un po' d'aria.